A bordo campo di Dario Ricci. Altro che Coppa del Mondo e Coppe Europee, la partita più importante, e lo sappiamo bene qui a bordo campo, il nostro calcio la sta combattendo, la sta giocando ogni giorno, ogni domenica contro l'illegalità, contro quelle organizzazioni mafiose, camorristiche che allungano i loro tentacoli, le loro mani anche sul calcio di base, organizzazioni che non solo commettono crimini efferati e spesso al centro delle cronache giudiziarie, ma che soprattutto ci rubano il piacere di giocare a calcio, il piacere di fare gol, il piacere di vivere come vogliamo il nostro tempo libero. E allora, proprio di questo oggi parliamo qui a bordo campo. Vi vogliamo raccontare la parabola della società sportiva dilettantistica Quarto, squadra di calcio di un popoloso comune nell'entroterra napoletano che sta tornando alla luce, sta tornando grande in questo campionato di promozione dopo anni davvero difficili. E allora, nostro ospite è Luigi Cuomo, presidente del Quarto e coordinatore nazionale dell'associazione Antiracket SOS Impresa. Benvenuto, dottor Cuomo. Beh, i due ruoli, il fatto che siano così vicini in questa storia e che avvicinino SOS Impresa al Quarto Calcio, non è certo un'affinità casuale, vero? Buonasera, buonasera. Proprio perché la nostra associazione, l'associazione Antiracket, è stata scelta dalla Procura per accompagnare un progetto di legalità che riconsegni questa squadra che era precedentemente nella disponibilità di un imprenditore riconducibile a Campolverino, uno dei clan più forti della provincia di Napoli, un clan che aveva e ha insomma le sue dimensioni un po' ovunque, quindi anche in questo settore. Bene, la procura ha arrestato l'imprenditore, ha sequestrato questa società che era la società sportiva e ha pensato, invece di lasciarla morire, di invece riconsegnarla alla città, ai suoi cittadini, ai suoi tifosi, con essa lo stadio che pur essendo una struttura pubblica era stata consegnata nelle mani di questa società e quindi privata dall'uso collettivo dei cittadini. Difatti squadra e stadio da una opportunità, da un'occasione di tifo sano e trasparente era diventato uno strumento di Malai Clan per confermare il loro prestigio, il loro dominio e anche per esercitare le attività illeciti. Eh sì, era il maggio del 2011 quando in un blitz contro il clan camorristico De Polverino veniva sequestrata la SSD Quarto e arrestato il suo patron castrese Paragliola con l'accusa di associazione di stampo mafioso. Società che ora è ripartita e che sta provando a ricostruire una propria credibilità sportiva anche attraverso un codice etico che avete imposto sia ai giocatori sia agli imprenditori locali che vogliono magari avvicinarsi alla squadra per aiutarla, no? Per sponsorizzarla. Ecco, ci parli un po' di questo codice etico. Sì, abbiamo deciso di costruire una nuova squadra invitando tutti i giocatori ma anche i tifosi a sottoscrivere un codice etico secondo il quale la legalità è il principio cardine, il calcio pulito è il principio cardine della squadra. Tutti i giocatori sono stati contrattualizzati, tutti i giocatori pagheranno le tasse per quelle che sono legittimamente dovute, quindi non ci saranno pagamenti a nero, pagamenti sotto il banco, eccetera. I tifosi sono stati obbligati in qualche modo a non fare cori contro gli avversari, ma soltanto a favore dei propri associati. Gli imprenditori sono stati selezionati, quelli a cui abbiamo chiesto la sponsorizzazione, per evitare di ritrovarci nella compagine degli sponsor, imprenditori collusi o coinvolti col vecchio regime. E ora c'è una sorpresa, perché? Perché la Quarto ha attirato l'attenzione di molti e sta per arrivare la nazionale, no? O sbaglio? Sì, infatti, grazie al campione Antonio Cucchiuzzi che ha avanzato questa proposta dal mister Prandelli. Grazie a questa idea di Occhiuzzi, il mister Prandelli ha accettato di venire a Quarto, abbiamo subito rivolto un invito specifico e diretto, e dalla Lega ci viene la conferma della disponibilità a venire a Quarto. Sarà una giornata storica per questa piccola città dell'entroterra napoletana ospitare la massima espressione del calcio italiano. Siamo per questo molto lieti e siamo anche convinti che questa opportunità rafforzerà ancora di più i cittadini quartesi oltre che i tifosi, perché questo è lo slogan che noi stiamo adottando: il calcio Quarto oggi gioca due campionati, uno nel quadrato dove speriamo di vincere e di conseguire la promozione, l'altro fuori dal campo. Bisogna vincere una battaglia di legalità in città per riconquistare la libertà d'impresa e la libertà di vita che i quartesi per decenni hanno perso sotto il dominio egemonico mafioso di Polverino. E allora, Presidente, lo sa, ci permetta di farle una sorpresa a lei, a tutti i quartesi, ma a tutti gli sportivi italiani. Benvenuto a bordo campo Diego Occhiuzzi, medaglia d'argento a Londra 2012 nella sciabola maschile, è vero, diciamo, ideatore di questa visita della nazionale che avverrà nelle prossime settimane a Quarto. Diego, benvenuto, raccontaci un po' come ti è venuta questa idea di attirare l'attenzione del grande calcio, della nazionale azzurra, su questa piccola grande storia del calcio di quartiere, del calcio popolare. Ma innanzitutto salve a tutti quanti. Io, come sapete, io sono napoletano e tengo molto la mia città, io amo profondamente la mia città e le zone della mia città, per cui avevo saputo questa notizia di questo campo di calcio del Quarto che era stato requisito, insomma, alla malavita, e avevano avuto dei problemi, per cui mi sembrava giusto, ecco, schierarmi a favore della legalità, ecco, è nata questa idea di invitare il commissario tecnico della nazionale proprio per far effettuare un allenamento alla nazionale, in modo da rendere un poco pubblica questa storia. Adesso devi metterci una buona parola per il gemellaggio col Napoli, che è il prossimo grande passo. Mazza, devo col fare tuo tutto, Napoli. No, io magari sì, magari si può organizzare anche una cosa del genere. Come prima cosa è importante che venga accettato, come già so che è stato accettato, l'invito, e poi partiamo prima con questa cosa e vedremo magari se Calcio Napoli vorrà partecipare anche lei. Siamo felicissimi, ecco. Senti, se Prandelli ti chiedesse di fare due calci con la nazionale, che ruolo sceglieresti? Sono più un'ala destra, ecco, corro abbastanza su quella fascia. Ah, beh, può far comodo. Senti, come farebbe comodo a questa nazionale anche un Insigne, che è, diciamo, il talento emergente di questo campionato e che già in azzurro ha fatto bene, no? No, sì, per carità, io ho visto giocare col Napoli per la prima volta e mi ha sbalordito, perché è un giocatore, è un ragazzo giovane e ha già la personalità di un grande campione e la sfrontatezza anche di un grande campione, poi ha dei numeri incredibili, quindi speriamo che possa far bene innanzitutto col Napoli, così pare, e poi con la nazionale, perché come pare il commissario tecnico sta puntando sui giovani, quindi lui è uno veramente di grande valore. Diego Occhiuzzi, allora grazie per essere stato nostro ospite, buon campionato col Quarto. Sì, no, buon campionato col Quarto, buon campionato col Calcio Napoli e speriamo bene, poi speriamo anche per la mia carriera, insomma, fra un poco si ricomincia con la stagione schermistica e speriamo bene anche lì. Assolutamente sì, grazie Diego, forza Napoli, dai, Magrego, e ciao. Forza Quarto. Grazie, forza Napoli, ciao a tutti. E allora, grazie a Diego Occhiuzzi, Luigi Cuomo, coordinatore nazionale di SOS Impresa. E per il Quarto abbiamo detto gli auguri di Diego Occhiuzzi, li abbiamo sentiti in diretta. È la prossima visita della nazionale, ma non sono tutte rose e fiori neanche adesso, no? Perché la vostra battaglia per la legalità non trova solo sostenitori, o sbaglio? No, ovviamente no. Ci sono evidentemente forse ancora, diciamo, molto ostili a questo progetto, che se dovesse, come speriamo e siamo convinti, dovesse vincere, metterà in ginocchio un vecchio sistema, un vecchio regime. Abbiamo ricevuto degli atti vandalici nel corso del mese di agosto qualche tifoseria ultra ci sta insultando sugli spalti, ma riteniamo che siano fatti che non siano in grado di fermare l'onda forte e profonda di cambiamento che questa squadra nel campo e fuori del campo vuole realizzare. Allora, presidente Cuomo, insieme a quelli di Diego Chiuzzi vi arrivino forti e chiari anche gli auguri e il grande in bocca al lupo di Radio 24 e degli ascoltatori di A Bordo Campo, e non solo, perché insomma siamo a fianco del quarto in tutto il campionato e soprattutto in questa grande battaglia di legalità. E grazie a lei, a SOS Impresa, per essere scesi in campo per vincere questa partita. Grazie a voi e buonasera a tutti. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. La partita più importante, la partita per la legalità, è quella che sta giocando ormai da anni il nostro calcio a qualsiasi livello. Abbiamo visto calcio scommesse, truffe e problemini vari e problemoni anzi per il calcio d'alto livello, ma la battaglia e la partita per la legalità è anche quella che a ogni livello e soprattutto a livello locale il calcio a noi più vicino, quello di quartiere, quello dei piccoli centri, quello delle piccole cittadine italiane a nord come a sud, gioca ogni giorno. E allora oggi a Bordo Campo è proprio questo il tema che vogliamo sviluppare insieme a un ospite d'eccezione. Benvenuto Pierpaolo Romani. Beh, grazie infinite, grazie ai vostri ascoltatori. Allora, Pierpaolo Romani, autore di un libro Calcio Criminale, edito da Rubettino, e poi soprattutto ricercatore, giornalista, attualmente coordinatore nazionale dell'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le Mafie. Dal 97 al 2001 e poi dal 2007 al 2008 è stato consulente della Commissione parlamentare antimafia e ora è collaboratore anche dell'Associazione Italiana Calciatori proprio su questo tema. Tra l'altro, Pierpaolo, sei reduce da una freschissima esperienza in cui hai vestito i panni del professore di fronte a un uditorio del tutto particolare a Coverciano, vero? Raccontaci un po'. Sì, è stata una giornata per me indimenticabile. Lunedì 17 settembre sono stato invitato al centro tecnico di Coverciano a parlare di calcio e mafie, quindi a presentare Calcio Criminale ai 40 corsisti che stanno per prepararsi a diventare direttori sportivi, e tra questi c'erano calciatori del calibro di Cannavaro, di Oddo, di Fiore e tanti altri, e a loro ho cercato di spiegare perché le mafie sono interessate al calcio e perché è importante che chi ha praticato sul rettangolo verde il calcio ora si propone di essere un dirigente, deve fare la sua parte invece per contrastare questo fenomeno e contribuire a costruire un sistema del calcio pulito ed onesto. Ecco, domanda che però ti prego di illustrare anche a noi e ai nostri ascoltatori: perché queste mafie si avvicinano al calcio e soprattutto al calcio locale? Perché se è vero che i casalesi anni fa tentarono la scalata alla Lazio come squadra di alto livello, è molto più facile che questi clan si avvicinino a formazioni come il Rosarno in Calabria, oppure il Sapri Calcio, oppure l'Interpiana Cittanova. Insomma, sono squadre che chiaramente non sono sotto i riflettori e l'attenzione dei media, del grande calcio che conta, ma che invece sono appetibili per queste organizzazioni. Perché? Sono molto appetibili. Le squadre di calcio e i mafiosi servono a questo, per gestire e acquisire il consenso sociale. Mi spiego. I tifosi da 18 anni in su sono persone che votano e quindi possono essere un bacino elettorale importante per fare eleggere un sindaco vicino alle mafie, quando addirittura non organico alle mafie. Secondariamente, una squadra di calcio contribuisce a cambiare in positivo l'immagine dei mafiosi. In Calcio Criminale racconto l'entrata di Francesco Schiavone, detto Sandokan, boss dei Casalesi, nell'Alba Nova Calcio, la squadra del Casal di Principe. La società emise un comunicato dove diceva: oggi nel Casale Calcio si è aperto un raggio di sole, è entrato nella dirigenza il noto imprenditore Francesco Schiavone. Quindi un killer efferato diventava improvvisamente un noto imprenditore. Naturalmente, e finisco, le società diciamo minori, l'Eccellenza, la Serie D, la Lega Pro, sono quelle dove purtroppo gira molto meno denaro rispetto alla Serie A. Gli stipendi non arrivano mai regolarmente, a volte non arrivano mai, e quindi qui c'è più possibilità di corrompere calciatori e dirigenti, e soprattutto, essendo squadre legate al territorio, è più facile gestire e controllare il consenso sociale. E insomma, gli episodi che possono esemplificare quello che hai detto sono infiniti nelle pagine del tuo libro. E a completamento mi viene in mente anche un episodio che racconti intorno a pagina 133, perché sto sfogliando intanto il tuo libro, di cui ho letto qualche capitoletto, relativo alla Schiavonea 97, no, di Corigliano Calabro, il comune che ha dato i natali non solo calcistici a un campione come Gattuso. Ebbene, un boss locale che teneva anche le fila della squadra, secondo la ricostruzione giudiziaria, mascherava, vado a leggere, il pagamento delle estorsioni ai commercianti locali mediante l'emissione di fatture che gli imprenditori successivamente deducevano come costi nella loro dichiarazione dei redditi. Questi imprenditori di fatto sponsorizzavano a cifre gonfiate la squadra locale, e addirittura questo boss emetteva fattura. In tal modo l'estorsione mafiosa diventava un costo d'esercizio, perché serviva anche a ridurre l'imponibile sul quale pagare le tasse, un modo per scaricare, scrivi, i costi dell'illegalità sull'intera collettività. Beh, mi viene da dire, citando questo episodio, oltre il danno la beffa, no? Sì, sicuramente è proprio così. Devi tenere presente, io nel libro racconto molto il rapporto anche di una certa imprenditoria rispetto alle richieste di estorsione rispetto al mondo del calcio, no? Per esempio anche a Pagani, alla Paganese Calcio, con la complicità addirittura dell'ex sindaco Gambino, che ora è stato arrestato e poi il comune è stato successivamente sciolto, ecco, ci si reca da questi imprenditori e si estorce denaro mascherandolo da sponsorizzazione. Per chiudere, Pierpaolo, ti chiedo ancora, i tuoi alunni d'eccezione guidati da Capitan Cannavaro come hanno reagito alla tua lezione? Molti sono rimasti scossi, soprattutto i calciatori che adesso che hanno giocato e che tuttora vivono nel nord Italia. Per esempio, ho raccontato loro la storia della Sanremese Calcio, no? Nel 2010 i dirigenti di allora si avvalgono di due criminali legati all'Andrangheta calabrese per minacciare tre calciatori, per chiedere loro di chiudere il contratto in maniera tale da non pagargli più lo stipendio e la buona uscita, perché la squadra è in difficoltà economica. Uno di questi calciatori è Roberto Sosa, detto il Pampa, a cui viene puntata una pistola nel ginocchio, gli viene detto o firmi e te ne vai via o ti spareremo alla gamba e non giocherai più. Per testimoniare che non facevano così, che non scherzavano, io ho ricordato alla platea dei miei alunni che un'ora dopo questa minaccia lo stesso signore calabrese ha ucciso un suo compaesano in un supermercato di Sanremo. Ho spiegato loro, ho sottolineato con forza che il mondo del calcio di oggi è un mondo dove c'è ancora troppa omertà. Molti sanno le cose ma non parlano. Ed è un calcio che deve invece cambiare, deve svoltare, a partire da chi lo ha praticato e da chi lo pratica. Insomma, ci sono tutte le possibilità per cambiare, è l'esempio che conta. Io mi sono molto raccomandato, se così posso dire, a quanto è importante il ruolo di un calciatore, di un dirigente dentro e fuori dal campo. Migliaia di ragazzi sui loro tablet, sui loro telefonini, nelle loro camere da letto hanno l'immagine dei calciatori, non di altri. Perché i calciatori diventano un punto di riferimento, un esempio comportamentale, e quindi mi sono molto raccomandato che prestino attenzione a questo. Ma la possibilità di costruire un calcio pulito e onesto esiste, è compito nostro costruirlo. E allora, Pierpaolo Romani, grazie davvero per aver raccontato alcuni flash di questo incontro davvero particolare, per averci anzi anche introdotto ad alcune pagine di Calcio Criminale, lettura assolutamente imprescindibile per chi vuol capire il calcio e non solo, di oggi, edito da Rubettino. Pierpaolo, ringraziandoti, ti do l'arrivederci, perché ti voglio risentire presto a bordo campo. Telefonino sempre acceso, mi raccomando. Grazie e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.